bella Maria, in questi giorni che sulla terra c'è la fame, c'è la guerra, come sei bella, come sei bella Maria, in queste ore che nel mondo c'è odio, non c'è perdono, come sei bella, come sei bella Maria. Quest'odio dal mondo toglierà. Bella, più del sole sei, pura come una lacrima che dai tuoi occhi scende già. E quest'odio dal mondo di chi soffre, di chi piange, di chi spera, come sei bella, come sei bella Maria, in questo sole che tramonta sulla fame, sulla guerra, come sei bella, come sei bella Maria.